l'outsourcing non brucia posti di lavoro a casa, perché occorre avere una visione dell'economia globale. Dunque, nel momento in cui si consente all'India di crescere e di andare avanti, l'India tirerà su altri settori, magari si perderà un posto di lavoro a casa per quel posto che è stato perso a vantaggio dell'India, però se ne recupereranno degli altri, e quindi il calcolo è che per ogni posto perduto a vantaggio dell'India se ne recuperano due nel paese di origine. Beh, vero, falso, difficile ovviamente fare dei conti, però lo stesso Barack Obama ha espresso grandissima soddisfazione perché la Harley Davidson, la conoscete, la grande casa di produzione di motociclette, ha deciso di aprire un impianto di assemblaggio qui in India con un investimento di qualche centinaio di milioni. Le parti, i motori e tutto il resto sarà prodotto negli Stati Uniti, dunque la produzione americana aumenterà, sarà poi trasferito senza imposizioni tariffarie in India e sarà poi assemblato lì. E dunque questo affare non è una, come si dice, zero sum game, quindi un gioco a somma zero, ma, come ha detto Barack Obama, è un gioco in cui tutti vincono. E dunque il presidente, per poter rilanciare questa sua iniziativa, ha annunciato l'abolizione di alcune barriere che impediscono all'America di esportare alta tecnologia in India, perché si temeva che potessero esserci delle ricadute militari, quindi c'erano dei problemi di sicurezza che oggi non hanno più ragione di esistere, ha detto Obama. Soprattutto punterà al finanziamento pubblico. La Exim Bank, pensate, ha finanziato 5 miliardi di dollari direttamente. L'Exim Bank è l'equivalente della nostra SACE, che fa finanziamenti all'esportazione, 5 miliardi di dollari diretti a una società che si chiama Reliance, una delle più grandi aziende, uno dei più grandi conglomerati indiani. Questo da noi non sarebbe possibile. Perché? Perché la SACE può solo dare garanzie, mentre l'erogazione avviene attraverso le banche, e dunque il costo alla fine per le aziende è superiore.